all'improvviso tu. Le mani tue leggere. Cosa che somiglio a brivido, qui, qui sulla pelle mia. Qualcosa che non so descrivere, che il senso dolce della poesia. Mi sto chiedendo se l'amore tuo sia un'illusione mia. Un giorno tutto questo finirà, che ne sarà di me? Mio Dio, ti sento viva più che mai, qui, qui tra le braccia mie. Sei tu, sei proprio tu vicino a me. Sono immense.